B. Ascolta e controlla. Il consiglio del medico. Paolo, hai una brutta influenza? Se vuoi evitare complicazioni di qualsiasi genere, vai a casa, mettiti subito a letto e stai al caldo. Rimani lontano dal posto di lavoro per una settimana. Contro la febbre, prendi questi antibiotici ogni 12 ore a stomaco pieno. Se la febbre non si abbasserà nel giro di 3 giorni, fammelo sapere. Passerò da te e ti cambierò la cura.